io salto gli ostacoli. E non capisco come mai tu che ora ci stai non riesci a capirmi. Io non mi affianco agli artisti e finché giro solo nella mia città penserò a coprirmi. Tu che inizi, sentimi, pensi di pagarti i vizi, dimenticati. Pensi che ci siano gli amici lì a sorreggerti, quando poi non hai più un euro tutti a perdersi. Io ho iniziato un po' di tempo fa, non ho soldi per i baggy, metto gli Adidas. Per i dischi messi fiamma nella camera, ogni volta li scimmiavo, ho dato l'anima. Ho seguito quei pochi ed ero solo a far buncia, ed ora chi c'è ancora perché ancora non rinuncia. Ora che il tempo mi va io sto ancora qui, e finché anche Dio lo vorrà dare i miei CD. Avevo i video dei miei big nei VHS, Pax, Snoop, B.A.G, Nas, Woods, Method Man, Warren G, N.W.A, Straight Outta Compton, Eazy-E, Ice Cube, Lucky Malolo. Questa me la dedico alla musica, il mio suono brilla in città, tu lo senti? Sento la mia testa che fa la la la la la la la la. Questa me la dedica alla musica, il mio suono brilla in città, tu lo senti? Sento la mia testa che fa la la la la la la la la. Cash rules everything around me, queen get the money, dalla dalla bio perché lo ami qui. Gira tutto sui denari, e i sogni dei miei cugini sono sempre più lontani. Ricordi, erano i tempi dei 90, la roba dentro il Walkman già sembra che ti parla. La strada più la vivi al peggio più ti cambia faccia, al tempo stavi meglio con un flower fatto all'ombra della palma. Erano i tempi delle crew, delle varie jam, Cugia, Timberland, Boots, movie fuori the club. Original boom bap, cresciuto su sta merda, fucking the Babylon. Lo sbirro a faccia a terra, ho seguito la mia strada. Sorry, mama, smoky, Lala, Mary J, marijuana, rap, scala. Scherzo, make it dalla, three on falla, garantito, make it holla. Questa me la dedico alla musica, il mio suono brilla in città, tu lo senti? Sento la mia testa che fa la la la la la la la la. Questa me la dedica alla musica, il mio suono brilla in città, tu lo senti? Sento la mia testa che fa la la la la la la la la. Questa me la dedico alla musica, il mio suono brilla in città, tu lo senti? Sento la mia testa che fa la la la la la la la la. Questa me la dedica alla musica, il mio suono brilla in città, tu lo senti? Sento la mia testa che fa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Uno per la musica, due per lo show, tre perché la musica non muore mai. Uno per la musica, due per lo show, la la la la la la la la. Yeah, this is for the music. Questo è per l'EPA, ok ok, per quello per cui sono cresciuto. Ehi, ehi, è ormai 10 anni che sento questa roba. Ehi, hey, e so che questa roba non morirà mai. Mia!